Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla ed è l'ultima puntata della settimana. Poi inizia il weekend. Venerdì scorso è stato un giorno importante per il mondo. Un giorno che ci ricorderemo per molto molto molto molto molto molto molto molto molto tempo. Dicono tutti che era dal 68 che non si vedeva una roba del genere. Tutti quei giovani in piazza, tutti quegli studenti che hanno deciso di non andare a scuola, di seguire questa ragazzina svedese, Greta Thunberg, che ha chiamato tutti a manifestare in più di 100 paesi, in più di 2000 città, a chiedere di fare qualcosa per il clima, di cambiare, di riuscire a dare un mondo anche alle persone di domani, un mondo come l'hanno potuto vivere i nostri genitori. È stata una manifestazione gigante. Io adesso vi voglio leggere il discorso che ha fatto il 4 dicembre alle Nazioni Unite, o almeno una parte. Ciò che speriamo di ottenere da questa conferenza è di comprendere che siamo di fronte a una minaccia esistenziale. Questa è la più grave crisi che l'umanità abbia mai subito. Noi dobbiamo innanzitutto prenderne coscienza e fare qualcosa il più in fretta possibile per fermare le emissioni e cercare di salvare quello che possiamo. Voi parlate soltanto di un'eterna crescita economica verde, poiché avete troppa paura di essere impopolari. Voi parlate soltanto di proseguire con le stesse cattive idee che ci hanno condotto a questo casino, anche quando l'unica cosa sensata da fare adesso sarebbe tirare il freno a mano d'emergenza. Non siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno. Lasciate persino questo fardello a noi ragazzi. La biosfera è sacrificata perché alcuni possono vivere in maniera lussuosa. La sofferenza di molte persone paga il lusso di pochi. Se è impossibile trovare soluzioni all'interno di questo sistema, allora dobbiamo cambiare sistema. E io credo che le nostre nuove generazioni hanno il potere di farlo, ma bisogna capire che è l'impegno di ogni singolo secondo, ogni singolo giorno che fa la differenza nella nostra vita. È il voler essere ogni giorno migliore, ogni secondo della nostra vita, avere la capacità di ascoltare quello che ci stanno raccontando gli altri, quello che ci vogliono dire, quello che ci vogliono far capire. Ora voglio farvi ascoltare una canzone, che non è proprio una canzone perché ho scaricato in realtà soltanto un pezzo di questa canzone, perché è legata a una pubblicità. Domenica vi ho fatto sentire una sigla di un film, oggi vi faccio sentire una pubblicità, dura pochissimo. Di cosa parla questa pubblicità? Parla del futuro. Parla del futuro ed è la pubblicità di Electricité de France, che è una società energetica francese, un ex di monopolio di Stato, che naturalmente è la responsabile della costruzione di centrali nucleari in Francia. Ora lo dico subito, le centrali nucleari inquinano molto meno a livello di CO2, di emissioni, rispetto a qualunque idrocarburo o carbone che voi, anche a cui voi pensiate, anzi sono tra le più pulite dopo le rinnovabili a livello di emissioni le centrali nucleari. Però detto questo, no, che non è l'argomento di cui volevo parlarvi, è che in questo video vedi proprio come riusciamo a coniugare il contatto con la natura, perché i protagonisti sono una coppia di fidanzati in giro per il che va a fare una passeggiata per i boschi, con la tecnologia, tutto quello che ci sta accapitando, tutto ciò che stiamo andando incontro, questo progresso infinito, queste startup che escono fuori di tutti i tipi, questo mondo che sta andando sempre di più a posto stare sul divano e controllare ogni cosa che voglio, il mio frigo che si riempie, il mio armadio che si riempie, le mie scarpe nuove, la pizza che mi arriva a casa, la temperatura della casa, le luci, e chi ne ha più ne metta, il lavoro da casa. Possiamo sempre stare dentro a casa, possiamo usare le tecnologie, possiamo non usarle, tutto dipende da noi e dal modo in cui vogliamo vivere. E ora vi lascio a questa canzone, a questo pezzo di una canzone, come vi dicevo non è proprio una canzone, però il titolo ve lo voglio dare lo stesso perché secondo me è una canzone che vi consiglio di ascoltare, molto interessante, si chiama Whiskey Flats di Bosk Brown, e questo è EDF, Notre Avenir est électrique. Whiskey flats and I'm on my way, Lord let me fly. The bosky flows and it runs dry, I'll hold me down to where I will die. They say she don't, they say she don't, they say she don't talk rest, alright. Oh, let her be, let her be, let her be, it's where I take it easy out there. Oh, guns and land, I understand, oh, red and white, I'll fight the fight. A yellow rose, rest her head in the face, her fine pain. She don't, they say she don't, they say she don't talk right, it's alright. She's fine, just give her time. She's fine, just give her time. Just give her time. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.